Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Divide il rilancio dell'ipotesi rigassificatore a Trieste, poco compatibile con l'attività portuale, dice un esperto. Forum del mare, focus sui porti, il viceministro Rixi contro la tassa europea sulle emissioni, è penalizzante. 1502 migranti arrivati a Udine in 8 mesi, esplode la presenza di minori non accompagnati. Rinvio a giudizio per la morte di Penelope, travolta da un'acquasantiera nella chiesa dell'Uccellis di Udine. Un codice fiscale e una finta residenza per avere il reddito di cittadinanza, scoperti e denunciati 3 cittadini rumeni. Pordenone legge, oggi arrivano gli autori stranieri, la scienziata Ilaria Capua ieri sul palco del Capitol. Lutto nella pallanuoto, addio al campione Luca Giustolisi, era diventato anche giudice onorario per i minori. 12:31, buongiorno da Livia Liberatore e Rita Micoli. Ulteriore sviluppo del ruolo commerciale del porto di Trieste o la prospettiva di vedere nel golfo una nave per la rigassificazione. Due ipotesi che non sembrano poter funzionare insieme e su cui la politica si divide dopo le dichiarazioni del ministro Pichetto Fratin nella prima giornata del forum in corso alla stazione marittima di Trieste. Rigassificatore, perché no e perché no sul Golfo di Trieste? Le parole pronunciate al nostro microfono dal ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, a margine del convegno dedicato al mare voluto dal governo, hanno subito acceso reazioni politiche. Rigassificatore a Trieste, esercizio oramai retorico, ha detto Deborah Serracchiani, deputata Dem. Ogni territorio ha la sua vocazione, qui le idee e gli investimenti sono chiari. Possibilista invece Maria Sandra Tedesca, segretaria regionale d'Italia Viva, che dice l'ipotesi va studiata più approfonditamente, ma il paese ha bisogno di rendersi autonomo dal punto di vista economico e se si farà per i cittadini del Friuli Venezia Giulia dovranno esserci dei benefici evidenti in termini di riduzione di bolletta del gas. Ma l'idea di fare a Trieste un rigassificatore offshore non è certo una novità e noi ci siamo rivolti all'Università di Trieste, dove il professor Vanni Lughi, docente di scienze e tecnologie dei materiali, spiega che un rigassificatore ha un impatto ambientale e dei rischi da considerare, ma anche un costo energetico solo per realizzarlo. Sentiamo. Il costo energetico di un sistema che produce o trasferisce energia chiaramente non si può trascurare. Nel caso del gas e in particolare del gas che passa attraverso rigassificatori piuttosto che, diciamo, rispetto ai normali gasdotti, è particolarmente sconveniente dal punto di vista del bilancio energetico. Cioè, noi per ottenere una decina di unità di energia dobbiamo spenderne almeno 2 indicativamente. Quindi questo sicuramente è peggiorativo rispetto ai bilanci energetici di altre fonti di energia, tra cui per esempio quelle più moderne, quali quelle rinnovabili. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. E ancora di porti si sta discutendo in questa seconda giornata del forum triestino Risorsa Mare. Sentiamo in che termini in questo servizio. Al centro del dibattito della seconda giornata del forum Risorsa Mare ci sono i porti, tema che interessa in modo particolare Trieste, il Friuli Venezia Giulia. Ad aprire la discussione il viceministro delle infrastrutture Edoardo Rixi, che ha ammonito rispetto alle possibili conseguenze della proposta tassa europea sulle emissioni delle navi, che rischia di penalizzare soprattutto il porto di Gioia Tauro in favore di altri scali del Mediterraneo meridionale. Una tassa che riguarda solo i trasbordi e quindi di fatto non tocca direttamente Trieste. Il mondo dei porti affronta un periodo di contrazione dopo anni di crescita anche marcata. Ovunque si vedono segni meno davanti alle cifre percentuali, la certificazione di cali che si differenziano per intensità. Nel pomeriggio atteso il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani, la sua proposta di privatizzare i porti per fare cassa ha fatto discutere nelle settimane scorse. Tra i temi di attualità, l'investimento ungherese nel porto di Trieste ancora nella sua fase preparatoria. Nei giorni scorsi il viceministro Rixi ha parlato con un suo omologo magiaro per fare il punto della situazione. La notizia data poco fa da Rixi è che proprio ieri si è aperta la procedura della VIA, la valutazione di impatto ambientale. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Crisi migranti, gli arrivi dalla rotta balcanica si moltiplicano anche a Udine, dove ci sono 165 persone escluse dalla rete dell'accoglienza e un numero crescente di minori non accompagnati. Sono 1.502 il totale dei migranti accolti ad oggi a Udine, 1.164 provenienti dalla rotta balcanica, 338 dell'emergenza ucraina e 165 i migranti fuori accoglienza. Ufficialmente 540 sono ospitati nell'ex caserma Cavarzarani di via Cividale del capoluogo friulano. Una situazione che la prefettura sta cercando di gestire al meglio. Diversi provenienti dalla rotta balcanica ogni mattina vanno nell'ufficio del governo per perfezionare le pratiche per il riconoscimento. Persone con provenienze, lingue, culture d'origine spesso diversissime tra loro, ma accomunate dallo stesso identico viaggio della speranza verso l'Europa. Una situazione complessa come in tutto il Friuli Venezia Giulia. Massimo Marchesiello, prefetto di Udine. Abbiamo comunque, come dire, coordinato molto gli arrivi, la gestione di quelli che comunque sono al momento fuori accoglienza, sono all'incirca 160, ma è un numero ovviamente così stimabile, approssimativo. Ecco, quello che, su cui ci siamo molto soffermati è intanto una gestione qui a livello locale, quindi con la prefettura che sulla lista di attesa che abbiamo ragiona soprattutto sulle situazioni dei vulnerabili, facendo fare comunque uno screening sanitario iniziale per vedere quali sono le situazioni che effettivamente meritano in ogni caso di essere sistemati in accoglienza. Questo la collaborazione del Dipartimento di Prevenzione e anche il buon ultimo della Croce Rossa Militare, che ci sta dando una mano anche nella cogestione di questa situazione. Ma come sottolinea il prefetto, tra gli arrivi è esplosa la presenza di minori stranieri non accompagnati, a cui bisogna trovare una sistemazione. Udine, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. La cronaca giudiziaria ha disposto il rinvio a giudizio per gli imputati nel processo per la morte di Penelope Cossaro, la bambina udinese di 7 anni che perse la vita nel novembre 2019 travolta da un'acquasantiera che si rovesciò nella chiesa dell'educandato Uccellis, dove stava svolgendo attività extrascolastica con i compagni della seconda classe elementare. Il GUP Maria Rosa Persico ha accolto la richiesta della PM Lucia Terzariol, l'allora dirigente scolastica Anna Maria Zilli e il direttore spirituale Johan Marginean Cocisai, cui era stato contestato di non aver adottato misure per garantire l'incolumità dell'allieva, compariranno davanti al tribunale monocratico il 12 ottobre imputati di omicidio colposo. Lillo Montalto Monella ha raccolto la voce della madre di Penelope, Laura Libanetti. Ringraziamo il pubblico ministero per il lavoro svolto fino ad oggi. Confidiamo nella giustizia e confidiamo anche nel fatto che questo porti a parlare di sicurezza nelle scuole, non solo legato ad una pandemia, ma in maniera molto più ampia, visto e considerato che mia figlia era sì in una chiesa, ma era a scuola, quindi mia figlia è morta a scuola di fronte alle mancate basi della sicurezza. 4 anni per giungere a un rinvio di giudizio? Sono tanti. Sono tanti per noi perché psicologicamente rallentano molto il processo di elaborazione del lutto, se non bloccarlo completamente. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Le fiamme gialle di Pordenone hanno denunciato 3 cittadini romeni per aver percepito indebitamente il reddito di cittadinanza da marzo 2021 ad agosto 2022 per complessivi 25.700 euro. Per ottenere il sussidio i 3 avevano falsamente dichiarato di risiedere in Italia da oltre 10 anni. La finanza aveva scoperto i 3 truffatori dopo la segnalazione arrivata dall'INPS, che aveva individuato delle posizioni anomale. I 3 profili presentavano infatti solo la residenza, ma non informazioni tributarie né stato civile. Incrociando le informazioni, le fiamme gialle hanno scoperto che i 3 avevano chiesto ed ottenuto un codice fiscale, attestando all'Agenzia delle Entrate di essere fisicamente domiciliati in Italia a un indirizzo che nella richiesta del reddito di cittadinanza è improvvisamente diventata la loro residenza ultradecennale. Il compito di recuperare ora le somme erogate. Ancora un aumento del costo del denaro deciso dalla Banca Centrale Europea. Con quali conseguenze per imprese e famiglie? Sentiamo. L'inflazione torna ad alzare la testa, anche se di poco, e si stabilizza nel confronto con l'anno scorso. A Trieste rispetto a luglio i prezzi salgono dello 0,2%, a Udine invece dello 0,5%, diverso invece il dato anno su anno. Nel confronto con agosto 2022, quello del boom dei prezzi di luce e gas, l'inflazione è stata del 5,6% nel capoluogo e del 5,2% in Friuli. Quest'ultima cifra continua a scendere da ottobre, quando c'era stato il boom, più 11,3%, a gennaio era al 9,4%, a maggio superava di poco il 7%. L'ultimo mese era sceso sotto quota 6. L'inflazione percepita rimane però più alta, questo perché i prezzi dei prodotti alimentari e della ristorazione sembrano non avere un freno, più 10,7% a Trieste, più 10,2% a Udine rispetto all'anno scorso per il carrello della spesa, addirittura sopra il 20% per la verdura e con picchi che toccano il 15% per la frutta. Alloggi e pacchetti vacanze salgono del 15%, i ristoranti del 10% e del 6% a Udine, il 10% in più per gli alberghi, i ristoranti sotto San Giusto, 6,2% in Friuli. Sempre per quello che riguarda i prodotti di largo consumo, aumenti in doppia cifra anche per il cibo per gli animali. In tutti i casi però, se confrontati a luglio, i prezzi si sono generalmente stabilizzati, scendono invece sempre in doppia cifra energia elettrica e gas. Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Presentata ieri la quinta edizione dell'Executive MBA promosso dall'Università di Udine e da Confindustria, per il quale si sono aperte le candidature. Nell'occasione sono stati diffusi i dati di un'indagine sui primi 100 allievi che hanno completato il percorso. Il 52% di loro ha incrementato la propria retribuzione annua lorda nei 2 anni tra l'inizio e la fine del master. Il 10% ha creato una nuova impresa, il 49% ha cambiato ruolo durante o subito dopo il master. Voltiamo pagina. In tutto il mondo il mese di settembre è dedicato a chi dimentica, un mese che si tinge idealmente di viola, colore divenuto da tempo simbolo della malattia di Alzheimer. Impegnata da 35 anni sul fronte delle demenze e dell'Alzheimer, l'associazione The Banfield, che sta proponendo in queste settimane numerose attività di sensibilizzazione. Si è appena conclusa in Piazza della Borsa la conferenza stampa di presentazione delle molte attività in occasione del mese dell'Alzheimer organizzate dall'associazione The Banfield della Trieste Viola. Molto partecipata la conferenza, con la presidente Maria Teresa Squarcina Monti cerchiamo di capire quest'anno qual è la novità. Oltre allo Spritz Viola, di cui siamo già appassionati sostenitori, si balla anche così? Si balla quest'anno, pensiamoci ballando, per coinvolgere maggiormente, più attivamente le persone normali, oltre che varie associazioni che raccolgono le più disparate realtà. Si tratta di un incontro aiutato anche dall'associazione, la scuola di ballo TikTok Talk, in cui si ballerà un brevissimo ballo per il quale chi si è iscritto ha ricevuto il tutorial per eseguirlo sulle note della canzone Ricordi dei Pinguini Tattici Nucleari. Questo fa parte di un discorso che ci vede impegnati, oltre che nel dare direttamente i servizi, soprattutto nel sensibilizzare e far sì che la società in cui vivono queste persone ammalate sia capace di accoglierle e farle stare in benessere. E con questo pensiamo anche di riuscire a dare un nostro contributo a cambiare complessivamente il modo di porsi verso chi è meno fortunato e soprattutto vincere quello che è ancora lo stigma di questa malattia, che porta chi ne soffre, i loro familiari, a vergognarsene. Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. Oggi e domani al Parco Basaglia di Gorizia si terrà la 10ª edizione del Lunatico Festival, progetto culturale che mira alla valorizzazione dei parchi regionali della salute mentale, in particolare alla riqualificazione del Parco Basaglia. Si comincia dalle 16 alle 18 con una visita guidata interattiva nel parco, si prosegue con diversi eventi tra arte, musica e letteratura fino alle 21:30, quando comincerà il concerto di musica balcanica dell'orchestra Max Maber. Ora uno sguardo al meteo. Il cielo è da poco nuvoloso variabile sulla regione, le temperature registrate alle 11, a Trieste 23,5 gradi, a Udine 24,5 gradi, a Pordenone e Gorizia 24, a Tolmezzo 21 gradi, a Tarvisio 19,5, a Forni di Sopra 17, a Sappada e sul Piancavallo 14, sul Monte Zoncolan 10,5 gradi, 10 sul Lussari, sulla costa Lignano e Grado 23,5 gradi, temperatura del mare 24. Le previsioni dell'ARPA regionale per oggi pomeriggio: cielo variabile, in giornata la probabilità di pioggia sarà piuttosto bassa. Per domani cielo in prevalenza poco nuvoloso sulla costa e sulle zone alpine più interne, variabile sulla pianura e sulle prealpi, dove nel pomeriggio sarà possibile qualche rovescio temporale. Venti a regime di brezza, un po' più sostenuta al pomeriggio sul settore occidentale della costa. Ora la cultura. A Pordenone, oltre 80 incontri in programma oggi per Pordenone Legge, tra gli appuntamenti quello con Federico Rampini, la speranza africana alle 18 al Verdi di Pordenone, alle 21 al Teatro Mascherini di Azzano Decimo. Poi lo scrittore americano Michael Bible presenta L'ultima cosa bella sulla faccia della terra alle 19 all'Auditorium Vendramini. E sempre nel pomeriggio arrivano tra gli altri al Festival il giallista francese Michel Bussy, Erin Doom con Stigma, Pier Giorgio Odifreddi con il libro Perché studiare matematica non è impossibile, Cristina Battocletti con Epigenetica. E ieri sera al Capitol in scena lo spettacolo Le parole della salute circolare con la nota scienziata Ilaria Capua e l'attrice Antonella Attili. Se il pianeta s'ammala, ci ammaliamo anche noi. Da questa semplice equivalenza nasce lo spettacolo teatrale della virologa Ilaria Capua, ieri sera sul palco di Pordenone Legge, che porta in chiave pop la scienza alla portata di un pubblico più ampio possibile. Salute circolare, la salute delle persone e degli altri animali sono strettamente interconnesse tra di loro, ma sono anche interconnesse dalla salute delle piante e anche dalla salute dell'acqua e dalla salute dell'aria. Basta prendere il cambiamento climatico, il riscaldamento, no, globale. Questo fa sì che non solo gli incendi inquinano e devastano gli ecosistemi, ma fa anche sì che il caldo porta degli insetti o permette a determinati insetti di proliferare, e gli insetti portano malattie. Abbiamo un focolaio di dengue a Lodi e abbiamo avuto la West Nile, insomma, in Veneto. Da donna a donna, ma da una generazione all'altra, Emilia Hart, 37 anni, anglo-australiana, debutta col suo Wayward, romanzo femminista campione di incassi in America e in Inghilterra, che ruota lungo 5 secoli attorno ai roghi, un tempo reali, oggi sulle piazze virtuali dei social, sui quali vengono bruciate le streghe, donne indipendenti di ieri e di oggi. Il modo migliore per conoscersi tra universi maschile e femminile credo sia leggere, ampliare i propri orizzonti tramite questo potente mezzo che è la lettura, perché è ciò che ci permette di immedesimarci nell'altro, comprendere la realtà in maniera nuova e diversa. Penso che gli uomini dovrebbero leggere di più libri scritti da autrici donne per capire come noi donne vediamo il mondo. Il mio è un libro che parla di donne e l'ho pensato per le donne, ma mi auguro che un racconto come questo possa arrivare anche agli uomini. Pordenone, Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. 5 brevi clip di film degli anni tra il 1947 e il 1989 diventeranno un'occasione per analizzare diversi aspetti dell'antagonismo tra Stati Uniti e Unione Sovietica durante la Guerra Fredda. L'appuntamento, proposto dall'ANPI provinciale di Udine alle 20 nell'ex caserma Osoppo a ingresso libero, a parlarne con il pubblico sarà Caterina D'Amico, preside della Scuola Nazionale di Cinema, a cui abbiamo chiesto quali film ha scelto per l'appuntamento. I titoli sono La spia che venne dal freddo di Martin Reed, 1, 2, 3 di Billy Wilder e Dottor Stranamore e Le vite degli altri. Come mai li avete scelti? Beh, perché esemplificano aspetti diversi di come il cinema si è relazionato, il cinema occidentale si è relazionato con il racconto della Guerra Fredda. Sono sguardi diversi. La spia che venne dal freddo è un film di spionaggio classico tratto da un famosissimo romanzo di Le Carré, che racconta però le spie, gli agenti segreti, in un modo molto diverso da quello che era il ritratto che ne faceva il cinema dominante di quegli anni, che era il cinema di James Bond. E quindi questa storia di spionaggio che si svolge a Berlino è l'involucro che racconta la situazione della Guerra Fredda. Quello è un film di spionaggio. Poi un altro film che si svolge a Berlino, magnifico, più o meno degli stessi anni, un pochino precedente, che è 1, 2, 3 di Billy Wilder, invece è una commedia. È una commedia molto, molto brillante, con dei dialoghi strepitosamente eccitanti e frizzanti, che racconta una storia di quel genere, il conflitto del muro, cosa si passa attraverso il muro di Berlino, ma lo racconta in termini di commedia. Invece Dottor Stranamore ancora è un modo diverso, più che la guerra fredda racconta la paura della bomba. E infine Le vite degli altri è invece uno sguardo molto posteriore, un film molto recente, che finalmente, prendendo le distanze dal problema scottante del momento, lo racconta con una lucidità che probabilmente gli altri film non hanno. Si apre oggi la nona edizione del Festival della Danza di Monfalcone, che proseguirà fino a domenica in diverse piazze della città, con esibizioni di danza classica, contemporanea e moderna di più di 30 scuole di ballo italiane e di Austria, Slovenia e Croazia. L'inaugurazione alle 18:30 in Piazza della Repubblica, con spettacoli di danza e body percussion delle scuole Movartex e Metropolitan APS. Ospite speciale il ballerino Ramon Agnelli. Nel pomeriggio previste altre esibizioni nel centro della città. In occasione del centenario dell'aeronautica militare italiana, il secondo stormo presenta a Udine la mostra 100 anni dell'aeronautica militare, la storia, le capacità e le tradizioni dell'aeronautica militare nei suoi primi 100 anni. L'inaugurazione oggi nella chiesa di San Francesco alle 18, l'allestimento espositivo visitabile fino al 15 ottobre ripercorre attraverso pannelli tematici e tavole grafiche i primi 100 anni dell'aeronautica, con gli eventi e fatti più significativi, partendo dalle origini, dalle gesta eroiche dei pionieri dell'aria e dalle visioni dei primi teorici del potere aereo, fino ad arrivare ai giorni nostri e alle nuove sfide. Presentazione in anteprima nazionale del libro Incontri a Pordenone legge oggi Armando Milani, sarà presente per inaugurare la mostra. Oltre 60 anni di carriera attraverso materiali di archivio inediti, la mostra patrocinata da AGI, Alleanza Grafica Internazionale, Associazione Italiana Design della Comunicazione Visiva, è curata dall'Associazione Obliquo con la Fondazione Pordenone Legge. Sold out al visionario per la proiezione delle 17:30 di Io Capitano, film premiato a Venezia, alla presenza del regista Matteo Garrone, che saluterà il pubblico anche prima dello spettacolo delle 17:55. Ed ora lo sport, con una notizia luttuosa. Da tempo malato e scomparso a 53 anni un grande protagonista della pallanuoto, Luca Giustolisi. Nato e cresciuto a Trieste, Giustolisi, figlio di Giuseppe, noto dirigente sportivo, si era affermato nei più prestigiosi team italiani fino a raggiungere l'apice della sua carriera sportiva, vincendo l'oro agli europei di Vienna del 95 e il bronzo alle Olimpiadi di Atalanta l'anno dopo, ma anche conquistando la Coppa Len, la Coppa delle Coppe con la Roma nel 94 e nel 96 e le Champions con Posilli, poi Pro Recco nel 98 e nel 2003. Dopo il ritiro è iniziata un'importante carriera da dirigente, partita proprio dalla sua città natale, proseguita a Nervi, Torino e successivamente con i vicecampioni della N Brescia. Ma si era laureato in psicologia con 110 e lode, diventando consulente psicologo e giudice onorario del Tribunale per i minorenni di Trieste. È stato commentatore tecnico di Rai Sport per la pallanuoto. Giustolisi lascia la moglie e un figlio. La pallanuoto lo ricorda per sensibilità ed eleganza, passione e competenza che aveva trasportato anche fuori dalla vasca in veste di commentatore tecnico, dirigente, allenatore, psicologo e mental coach. Questo è il ricordo della Federazione di Pallanuoto. Il basket, derby questa volta tra Trieste e Udine, torna ad infiammare il parquet del Pala Rubini per la qualificazione ai quarti di Supercoppa. Si gioca nel capoluogo regionale alle 20:30. Gesteco Cividale invece, battuta già da Trieste e Udine in Supercoppa, giocherà alle 18 in amichevole contro l'Olimpia Lubiana, Kranjska Gora. Un open day per far conoscere a bambini e ragazzini l'atletica leggera. Lo organizza in collaborazione con il CONI del Friuli Venezia Giulia la Libertà Sporcia dalle 17 alle 19 al campo sportivo Agosti di via San Vito a Pordenone. Ne abbiamo parlato con Mara Introvigne, presidente della Libertà Sporcia. Abbiamo ritenuto importante far provare tutti gli sport che l'atletica comprende in tutta la sua disciplina. Quindi ci sarà la postazione per i salti, per la corsa, per i lanci. In questo modo i ragazzi che parteciperanno, tesserati e non tesserati, potranno condividere una giornata nello spettacolare campo di atletica che è quello Agosti di Pordenone e lì divertirsi tanto in uno spazio all'aperto. E ci sono anche belle tribune, i genitori possono assistere alle loro performance dei loro figli. C'è interesse per l'atletica leggera? Allora, l'atletica leggera ha sempre un bel appeal sui ragazzi. È uno sport dall'alto molto semplice perché riprende i movimenti base, quelli elementari, innati se vogliamo, la corsa, il saltare, ma anche il condividere degli obiettivi di squadra, di gruppo, lo stare insieme. E ha questo grande vantaggio di svolgersi all'aperto, soprattutto in una realtà come quella di oggi, in cui i ragazzi stanno tante ore all'interno di ambienti chiusi. In chiusura due appuntamenti, Riccardo Lucio presenta il libro Confutazione della vista e altre ideologie a Trieste all'Antico Caffè San Marco alle 18, alla libreria Ubic sempre a Trieste sempre alle 18. Il fisico Giuseppe Mussardo presenta Maksimovic, la storia di Bruno Pontecorvo, uno dei ragazzi di via Panisperna. Ed è tutto per questa edizione del giornale radio regionale. In regia Mauro Cumine, Walter Vidonis. In redazione ha collaborato Valentina Veneruso. Da Livia Liberatore Rita Micoli, grazie per l'ascolto. L'augurio di un buon pomeriggio. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.